Montecitorio e dintorni di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio per questa puntata di Montecitorio e dintorni. In questo weekend del Ponte di Ogni Santi abbiamo con noi un deputato, anzi un cittadino del Movimento 5 Stelle, Riccardo Nuti, ex capogruppo, adesso che carica? Presidente del gruppo, solamente per gli aspetti diciamo legali e amministrativi. Allora, Riccardo Nuti, una settimana che si è chiusa con dolcetto o scherzetto riguardo a Berlusconi, treat or trick, perché abbiamo avuto voto palese, voto segreto, alla fine l'ha spuntata il partito del voto palese, una vostra vittoria? Beh, è una vittoria del Movimento 5 Stelle ma anche della normalità, perché il voto palese dovrebbe essere normale, mentre invece sembra sia una notizia solo perché siamo in un Parlamento e in un paese che è anormale. Ma soprattutto, secondo me, bisognerebbe invece pressare sul voto in aula, sulla decadenza, a prescindere dal voto palese o meno. Perché quello che è accaduto in questa propria settimana è che non hanno calendarizzato la richiesta del Movimento 5 Stelle di votare il 5 novembre e quindi hanno continuato a rimandare come il loro uso. Ecco, però voi avete sempre detto che PD e PDL pari sono, in realtà si è capito che il PD ha votato per il voto palese, è stato coerente, sono molto felici, anzi diciamo che dal Partito Democratico c'erano dei timori che poi franchi tiratori sarebbero stati dei 5 Stelle, ci sarebbe stato un gioco di accuse contro accuse, quindi adesso non ha più senso questa frase. No, ha proprio senso ed è confermata dal fatto che alla prova dei fatti, che è stata quella più importante, non che quella del voto palese, cioè alla prova di calendarizzare il voto in aula, PD e PDL si sono ritrovati per l'ennesima volta uniti nel rimandare questa decisione e non portare in aula il voto. E quella è la cosa importante, non è il voto palese o meno. Un'altra questione che è sul tappeto è se poi il governo si manterrà in vita. Qual è il parere del Movimento 5 Stelle? Perché Berlusconi è pronto allo strappo, Alfano invece vorrebbe continuare a tenere, forse il PDL si scinderà. Voi che cosa ne pensate? Che questo governo nei fatti è praticamente morto. Solamente che ancora regge dal punto di vista burocratico, istituzionale, ma non è che sta facendo qualcosa per il quale si possa dire che è un governo attivo, positivamente parlando. Cioè, o fa cose negative o non fa nulla, o si spartisce poltrone o rimanda. E quindi, cioè, di che stiamo parlando? Prima si va al voto e prima ci liberiamo di certa gente, meglio è. Il problema è capire se gli italiani hanno compreso che devono liberarsi di questa gente e non votarla più. Questa è stata anche la settimana che Beppe Grillo è venuto a Roma. Allora non siete andati più nell'agriturismo, non siete più i ragazzi del Movimento 5 Stelle, invece lui come leader politico è venuto lui da voi. È stata un po' una vittoria dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e soprattutto che vi ha detto? Allora, partiamo da un aspetto. Non è che se dei parlamentari andavano in agriturismo o meno eravamo dei ragazzi, mentre invece se Beppe Grillo viene qua siamo dei parlamentari. Questa è una grandissima cavolata. Noi siamo parlamentari e cittadini, sia se Beppe viene qua, sia se andiamo fuori. Anzi, io ritengo che sarebbe stato meglio andare fuori perché si ha maggiore tempo a disposizione, non si hanno gli impegni delle commissioni e dell'aula, e si ha uno spazio diverso da questo, che sicuramente non è proprio bellissimo. Detto ciò, quello che abbiamo parlato con Beppe, più che altro Beppe ha parlato con chi aveva qualche domanda e qualche dubbio, ha chiarito che il Movimento 5 Stelle non è un partito di sinistra, perché altrimenti, dico io, chi pensa di essere e avere delle ideologie di sinistra, legittime o meno, non sta a me dirlo, può andare tranquillamente in cell o in qualcuno che pensa nel PD, fatti loro. Ma sicuramente noi siamo un partito che deve cercare di ascoltare maggiormente la gente e soprattutto deve capire che non deve cadere in certe trappole che vanno per semplificazione. Faccio un esempio. Immigrazione, reato di clandestinità, sì o no? Allora si parte con la domanda, ma tu sei a favore del reato di clandestinità, sì o no? E poi si pensa che questo equivalga a risolvere o meno il problema dell'immigrazione, il che è assolutamente falso. E soprattutto non si tiene conto di come in certe zone d'Italia, soprattutto il centro-nord, ma non solo, questo problema dell'immigrazione è particolarmente sentito. Allora forse la risposta più corretta in questo momento è quella che faremo domani in commissione. Cioè, siccome fra il 2007 e il 2013 sono stati dati dall'Europa 480 milioni di euro per il problema dell'immigrazione, chiedere al governo questi 480 milioni di euro, come li avete utilizzati? Li avete utilizzati o no? Però nel Movimento 5 Stelle, insomma, sul reato di clandestinità c'è una divisione tra parlamentari e Beppe Grillo. Per esempio, lei è favorevole o contrario? Perché poi un'opinione personale si deve avere. Ma secondo me essere favorevoli o contrari non cambia nulla a riguardo. Ce lo vuol dire? No, non è che non lo voglio dire, è semplicemente che non cambia nulla, non risolve il problema dell'immigrazione, come ho detto io. Si tende a fare una semplificazione che è assolutamente inutile. Ora io dico, e come ha detto Beppe, noi dobbiamo interrogare il movimento, che non è 150 parlamentari, ma è tutti gli iscritti. E Beppe gli ha detto, se poi il movimento si esprime in maniera diversa da me o diversa da voi, va accettato. Però Beppe Grillo ha anche detto, dopo aver visto una seduta del Senato in cui il vostro capogruppo poi chiedeva appunto la calendarizzazione per il voto di decadenza di Berlusconi il 5 novembre, ha detto che il Senato assomiglia a un Vespasiano. Lei condivide questa idea o sono le famose immagini un po' accese del leader del Movimento 5 Stelle? No, io concordo, ma il mio parere è anche un po' peggiore al riguardo, perché sinceramente stando qua dentro, io sono alla Camera, però quello di cui ci si accorge è che in questo Parlamento non si fa nulla, e soprattutto non si capisce quello che si fa, e questo è gravissimo. Cioè si arriva qui, si vota e non si capisce cosa si sta facendo, e se si chiedono dei tempi maggiori di discussione e di confronto fra i vari gruppi non si hanno a disposizione, e poi ci sentiamo dire ridotti di 50 milioni i costi della Camera ma mantenuta la qualità. Ma quale qualità? I lavori in questo Parlamento, sia Camera che Senato, sono di una qualità pari a zero o quasi. E Beppe Grillo, quando è venuto in Parlamento, ha chiesto poi l'impeachment di Giorgio Napolitano, ma non era il più amato dei Presidenti della Repubblica. Perché voi non vi sentite rappresentati dal Capo dello Stato? In realtà abbiamo chiesto l'impeachment qualche giorno prima, ma noi non ci sentiamo rappresentati perché il Presidente della Repubblica non è più imparziale e non è soprattutto garante della Costituzione. Lo ha dimostrato fra i tanti eventi quando avalla la modifica della Costituzione, le cosiddette riforme costituzionali, con una procedura che viola la Costituzione. Ricordiamo, stiamo parlando della battaglia contro la deroga all'articolo 138 della Costituzione. E in secondo luogo quando convoca al Quirinale la maggioranza per discutere legge elettorale, che invece è un argomento che va discusso in Parlamento e non solo con la maggioranza, ma tenendo conto di tutte le forze presenti in Parlamento, senza dare un maggiore peso alla maggioranza. Perché se la legge elettorale se la fa PD, PDL e Scelta Civica, è chiaro che se la faranno a proprio uso e consumo. E invece va gestita fra tutte le forze politiche e non va fatta a colpi di numeri di maggioranza. Quindi una messa in stato d'accusa contro il Presidente che non ha sentito il boom, con una mozione, con una risoluzione, cosa farete? Beh, raccoglieremo tutti gli elementi che in questi mesi hanno contraddistinto il Presidente Napolitano per gli elementi negativi che lui ha collezionato, e li presenteremo in un provvedimento che vediamo di farlo calendarizzare fra novembre e dicembre. Non so quando ci sarà spazio, però sicuramente cercheremo di farlo calendarizzare quanto prima. Proteste, vi dicono, ma non proposte. Siete riusciti a portare a casa qualcosa, magari a far discutere qualcuno dei vostri cavalli di battaglia? Allora, intanto in queste settimane abbiamo ottenuto un taglio delle consulenze nella pubblica amministrazione per 40 milioni di euro e abbiamo impedito che tramite una legge ad personam del senatore Sposetti del PD venisse assunto a tempo indeterminato il dirigente Aulicino alla Consob. Inoltre abbiamo in calendario fra novembre e dicembre tre mozioni e una proposta di legge. Fra queste tre mozioni, oltre quella relativamente alla terra dei fuochi in Campania, c'è quella contro le pensioni d'oro e a dicembre la calendarizzazione della proposta di legge per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Ringraziamo allora Riccardo Nuti, abbiamo sentito, ex capogruppo, perché ruotano i capigruppo nel Movimento 5 Stelle, però presidente del gruppo alla Camera e deputato siciliano. Grazie. Grazie a voi.